Ok. Ma ti sto mandando quello che c'ho io giù, te l'ho mandato adesso guardo quello tuo, c'è anche il video, se lo vuoi vedere lo mando anche a Danilo. Ok, io ti ho mandato quello che ho trovato io qua, dimmi se è quello che hai tu. Sì, ma la kite è uguale, è identico quello lì, esistono diverse versioni, questo è un progetto russo che poi l'hanno clonato cinesi, americani e tutto, esistono le versioni evolute che arrivano sino a 2,7 GHz con, diciamo, con il display un po' più grande eccetera, è identico a questo, l'hai visto quello che ti ho mandato io, adesso lo mando anche a coso, a Danilo. Sì, è bello, è molto bello veramente, e si sente anche bene, riproduce bene le modulazioni, per cui non è nemmeno costoso, 76 euro. Avanti Danilo. Sì, più o meno ho già capito qual è, però poi ce la mette ricevere con questo, con questa qua non puoi trasmettere. No, assolutamente, questo è un ricevitore SDR che basta. Esistono altre possibilità, ma i trasmettitori, la interfaccia da computer costano un sacco di soldi, ma non sono giocattolini, così stiamo parlando di cose molto molto più evolute. Questo è per ricevere, per dire, uno che gli piace il radioascolto, si va in una montagna, in un punto alto, si mette l'antennina e si diverte, dai. Sì, quello sì. Vabbè, io già c'ho lo scanner per ascoltare. Portatile, mi diverto con quello. Però con quello puoi solamente ascoltare. Puoi parlare solamente in UWB e basta. No, ricevitori ne ho di tutte le qualità io ho tutte le bande. Ma non ne ho problemi, quando capita già ti faccio vedere le foto. Giulio già l'ha visto. La mia stazione ci sono degli aggiornamenti adesso, ho fatto proprio sabato, ho finito, ho fatto dei spostamenti e c'ho di tutto, ascolto di tutte le frequenze, ho la possibilità di ascoltare di tutto, poi col computer è ancora meglio perché lì puoi fare quello che vuoi. No, io c'ho quel pennino che ti ho fatto vedere, solo che non riesco a farlo andare, l'ho provato a collegare al computer l'altro giorno, zero, no, no, non riesco a collegarlo al programma. Allora devi installare il programma SDR Sharp, che è quello più comodo. E naturalmente da quanto ce l'hai questa pennina? Quanto ce l'ho? Neanche un anno. Fa un anno ad agosto. Quindi è quella abbastanza recente, no, perché io con quella che avevo io, che è una delle prime, più che altro la utilizzavo come televisione, per ricevere la televisione col computer, non faceva, si impallava tutto, però se ce l'hai abbastanza recente, c'ha già il chip di quello recente, tu, ci devi installare SDR Sharp, molto bravo su queste cose, Claudio D'Amuro, infatti sono andato e poi ne ho installato altri due di coso, di programmi, di applicazioni. E con quello apri con tutti i modi di emissione, anche i segnali criptati digitali ti apre. Quindi mi hai detto Sharp, SHARP. No, è scritto SDR Sharp, Sharp come la marca del coso, è un brevetto della Sharp. Sei presente che io non sono niente nel computer, mi arrangio, però ma coso Claudio è bravo, ci abbiamo perso una sedia giocando, ci mi ha fatto vedere tutti i trucchi loro, ma lui c'ha una bella apparecchiatura, nel senso con un pennino, ha pagato 30 euro di questo di Reggio Calabria, un radioamatore che lo fa, e ti posso dire ce l'hai divertirsi con quel programma. Ah. Prova a inviarmi quello che ti ho detto, Robè, così lo cerco e ci parliamo. Datemi 5 minuti che mi allontano, lo faccio fare a mia figlia perché lei pratica. E te lo mando a te, Daniel. Scusatemi un attimo, ma vatti giù. Ok, vabbè. Sì, ce l'ho anch'io, quel pennino lì, Dani. Però no, non lo uso mai perché ho bisogno dell'antenna e dunque io devo, siccome il computer ce l'ho giù, c'è bisogno di mettere una più lunga. L'avevo fatto sino a un annetto fa, lo piazzavo, però poi mi sono stancato e non l'ho più utilizzato. Ce l'ho sempre comunque, la pennina ce l'ho sempre. Però c'è necessità dell'antenna, bisogna attaccare l'antenna, se no non vedi niente, non vedi. Mentre invece con l'antenna allora sì, altra addirittura una volta avevo sentito anche radioamatori da Sassari, avevo sentito, per dirti, oh, però è successo una volta questo, niente di più. Sì, c'è da divertirsi, in effetti c'è da divertirsi, no, io direttamente con il computer e guardo lì, guardo, scrivo sulla tastiera, scrivo web web sdr.com e dunque mi si aprono le pagine, poi posso spaziare, ne trovo quanto ne voglio, non c'è problema. O Dani, sì, però così a me non mi piace molto, invece io preferisco più guardare dove va, collegarlo con l'antenna, intanto ce l'ho sul portatile, sul portatile qua in camera dove c'ho le radio, e poi andare a cercarlo esattamente con la radio, a vedere se riesco a agganciarlo veramente, perché così ne puoi sentire miliardi, perché roba di connessione solo. Invece collegandolo direttamente con l'antenna sai anche se riesci a riceverlo realmente. Ok Dani, dopo ti mando su WhatsApp, ti mando un sito, si chiama Radio Garden, e appare tutto il mondo, appare, no? La carta geografica praticamente del mondo, e tu c'è un cerchietto, spostando questo cerchietto tu sintonizzi qualsiasi radio privata, sia sarda, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Russia, dall'America, come ti pare ti piace. Tu ogni puntino verde che c'è è una radio. Tu col cerchietto tu lo metti su quel puntino che vuoi sentire e lì ricevi la radio. Dopo quando chiudiamo la trasmissione al baracchino, ti mando questo app, ti mando, tu aprila e poi vedrai che ci sono tante di quelle radio che non finiscono mai, comprese quelle di Sassari anche, tipo Radio Venere, tanto per fare un esempio, no? Da Sorso, dalla Corsica, da Oristano, da Nuoro, da Cagliari, da Carburia, dappertutto, oppure da Roma, da tutto il Lazio, da tutta la Sicilia, insomma tutto il mondo, tu dove vuoi, dove schiacci c'è sempre radio, ok? Dopo te lo mando. Sono rientrato io. Sì, vabbè, un attimino. No, già ce l'ho anch'io quell'applicazione lì, applicazione. È un sito, là, diciamo. No, ce l'ho anch'io quella lì. No, io stavo cercando solamente quella, anzi, ho cercato e alla fine ci sono riuscito. In poche parole sono tutti i radioamatori, quando ci mettono a fare contest oppure ci mettono il log, riesco a sapere esattamente con questa app che ho trovato dove sono e con chi stanno comunicando. E volendo posso sapere anche la loro stazione, come fate e tutto quanto il resto. È molto bella questo cosa che ho trovato. E infatti ogni tanto quando entro in radio guardo in che frequenza sono loro facendo la trasmissione, facendo il QSO, guardo che numero sono, però ti posso dire 27, anzi a 7101. Vado a 7101 con la radio, se li sento è buono, se non li sento vuol dire che sono veramente lontani e la propagazione per me non mi riguarda. Se li sento vado e guardo esattamente che apparecchiature hanno, antenne e tutto quanto il resto. Ed è molto bella questa applicazione, perché non è un'applicazione, è un sito, perché riesce a vedere esattamente dove arrivi con la radio. Sì, tu stai parlando di quell'app che c'è, sì, che poi c'è il numero, prendi il numero dell'app, guardi nella pagina a fianco, schiacci su quel numero e ti apre la stazione di quella persona lì. Ho capito, sì, anch'io. Sempre su coso, sempre su SDR, web SDR, anche lì lo trovo, praticamente. Sono l'app della località di ogni punto del mondo, praticamente. Avanti, Roberto. Allora, Dani, non parlare, schiaccia solo portante, un attimino. Quando stavi parlando ho sentito tutto così, prova a parlare adesso. No, comunque adesso vi invio questo link puntata che si trova, se vai in cose in radio e se ti arriva o meno in realtà. Sì, sì, già lo conosco, non è che ci vado spesso. No, quello che sto dicendo io è interessante perché ti dà tutte le radio, per dire le postazioni, vuoi andare nell'imbara, chi c'è nell'imbara ti dice tutte le stazioni che stanno trasmettendo di lì, la potenza, antenna, poi c'è dire, vuoi cliccarci sopra, c'è Radio Venere nell'imbara, Radio Algo, ci clicco sopra e mi dà le informazioni della radio, tutta la potenza, la direzione, il diagramma, eccetera, eccetera, poi ci clicchi dove c'è proprio il simbolo della radio e ti ascolti la radio, di tutto il mondo, in qualunque zona del mondo, tu scrivi Parigi per dire, e ci sono da 88 a 108 tutte le radio che stanno trasmettendo a Parigi, e da 88 a 108, cioè una attacca dall'altra, oppure a New York. Quello che mi colpisce è che in Italia abbiamo i trasmettitori più potenti del mondo, cioè in altre nazioni, in Francia, a parte la Torre Eiffel dove mi pare hanno qualche decina di kilowatt, tutte le altre sono massimo 2-3 kilowatt di potenza, in Italia ci sono stazioni da 400 kilowatt, se vai Radio Reporter su a Milano c'ha 400 kilowatt. Nulla è, solo che noi siamo ancora all'età della pietra, facciamo girare le ruotelle tramite una manovella. No, comunque vi ho inviato il link, e guardatelo, è molto interessante. Vabbè, Giulio ancora non ha guardato neanche le foto che gli ho inviato. Dix Fan Clues, quello lì stai? Sì, Robe. Io dopo me lo guardo con calma. Se c'è il radio che viaggiano in HF, guardi la frequenza, vabbè, si puoi guardare anche, mettere le frequenze che vuoi, 40 metri, 80 metri, 10 metri, 6 metri, e anche 70 centimetri. E se c'è una radio che riesce ad arrivare in quelle frequenze lì, prendi e vai direttamente, e se realmente ti arriva. Poi c'è una cosa bellina, però non l'ho mai provato io. Te lo ricordate Angelino, quello di Alghero? Te lo ricordate? No, io no. Giulio, te lo ricordi tu Angelino? Sì, me lo ricordo, però non lo sento quando trasmette, perlomeno non so che potenza usa, ma non lo sento. Però bisbiglio, sento solo il bisbiglio e basta. No, no, vabbè, sono da questa estate che non ho sentito, ci siamo mandati gli auguri per Natale, eccetera. E vabbè, perché ha avuto un figlio, la moglie ha partorito verso fine estate. Dai. Quello lì c'ha un programmino bellissimo, che me lo deve dare, infatti ce lo devo mandare, che tu, dalla tua postazione, per dire, io abito qua, ti posso dire, a Usilo, c'ho un'antenna di 6 metri, una 5 ottavi, e ti indici col GPS, ti trovi la tua posizione, ti colleghi al cellulare, e lui dici, per dire, con questa antenna a 5 ottavi guadagno eccetera eccetera a questa altezza con tale potenza, lui ti dà il diagramma di radiazione di quell'antenna e ti dice sino a dove arrivi, ti dà l'intensità di campo a seconda di, per dire, da Osilo, cosa ti posso dire, a Platamona, e ti dice qua arrivi con 30 dB di segnale, da questa parte con 20, e ti dà il segnale dalla tua postazione. È bello per quello. Certo, è interessante, una cosa del genere è proprio interessante. Anche per noi CB è molto interessante, e faccelo dare, se te lo dà questa applicazione, il sito di questa applicazione, prendilo volentieri e conservalo bene o robe, che è importante, dai, così poi magari ci dai delle informazioni tu direttamente. Avanti Dani. Sì, da parecchio tempo, qualche radio già me la sono ascoltata. Allora non te lo mando, se ce l'hai già, non te lo mando, cosa te ne fai, se ce l'hai già. Sì, sì, io ce l'ho da molto tempo, ce l'ho da tantissimo tempo. Ogni tanto ci vado così, quando sto giocando col telefonino, e ascolto, poi cambio, eccetera, eccetera. Però è simpatica la situazione, perché riesci ad ascoltare tutte le radio del mondo, riesci ad ascoltare. Tu mi dirai, ma un po' di consumo di batteria del telefonino c'è, certo che c'è, ma io lo ascolto anche dal computer direttamente, sicché non me ne frega niente del consumo della batteria del telefonino. E va bene così, dai, avanti, va bene. Sì, ormai col computer vai di tutto di più. anche il caffè ti fa. C'era questo amico mio, c'era l'applicazione nel coso del cellulare, cambiando discorso, questo qua ti mettevi il cellulare tuo in fronte, cioè in fronte ti facevi la fotografia del tuo cellulare, col tuo cellulare, tipo una videochiamata, ti mettevi il cellulare davanti, lui ti analizzava il viso, gli occhi, la pelle, tutto quanto, e quindi tu ti devi abbronzare d'estate, lui ti diceva tu con questo tipo di pelle devi fare l'orario per dire dalle 10 a mezzogiorno, perché poi è pericoloso, con questi occhi devi usare questa crema, e gli diceva tutte le indicazioni dove vai a Platamona, tu a Platamona adesso c'è sole, i raggi ultravioletti sono, non sono di che intensità, e ti dava tutte le informazioni, ti diceva l'orario e quanto ci potevi rimanere al sole, figurati. Sì, beh certo, certo, e oggi con i mezzi tecnici che ci sono, non ci sfugge niente, ormai abbiamo tutto e sappiamo tutto di tutti. Magari tante cose non le conosciamo, però soprattutto su YouTube e su Facebook lo stesso, io vabbè su Facebook non ci vado mai perché non lo uso mai, non l'ho mai usato, però su YouTube già ci vado molto spesso, ci vado, tornando a quel discorso l'altro giorno che mi ha detto quello che ripara baracchini, certo, è da anni che io l'avevo anche contattato, l'avevo per indirizzo, me l'avevo mandato, e poi anche altri amici, sempre su YouTube io già ritrovo e guardo quello che fanno, quello che non fanno. Sempre, anche mio fratello c'è, tu volevi vedere com'era oggi mio fratello, no? Tu avevi parlato l'altra volta che giocava al calcio, certo che tu giocava al calcio, guardatelo, mi scrivi YouTube Tore e il mio cognome e ti appare lui e lo vedrai e ascolta quando canta anche Sassarese eccetera, e se lo riconosci, se ti ricordi la sua faccia o Roberto. Appena ho 5 minuti di tempo già ci provo volentieri. Ok, Dani, a te il mic. Che cosa c'è di ricevitore tu oltre la chiavetta, tu Dani? Come Robè, non ti stavo seguendo. Di ricevitore oltre la chiavetta cosa hai? C'ho il cavetto per l'antennina e un CD. No, sto cambiando. Uno scanner, cosa c'è? Che non parliamo di questi digitali così, parliamo di quelli normali. Ah, oltre questa radio e quello scanner, c'ho due veicolari e il portatile scanner. Ehi, a Giulio tu c'avevi la R1000 se non sbaglio, ce l'hai? Sì, ce l'ho sempre ce l'ho, sì. E quello ai tempi che furono era bello, interessante, sì. Si sentivano tante di quelle cose, soprattutto anche le telefonate sentivi, insomma, ma ormai non si sente più niente riguardo di quello. Si sentivano anche tutte le forze dell'ordine, si sentivano, oggi credo che non ci siano più, io sono da un bel po' che non l'ho più acceso. Sì, ce l'ho sempre, Robè, ce l'ho sempre, la OR 1000 mi sembra, o 2000, boh, non mi ricordo se è 2000 o 1000, forse il mio è 2000, non me lo ricordo bene, Robè. Tu c'hai 1000, io c'ho il 2000 che sono uguali, quasi uguali come apparecchi, anche io lo stesso, quello ce l'ho conservato, però nuovo, con l'astuccio suo originale, ce l'ho così qualche volta, me l'ho portato con l'andologia, poi c'ho la R3000, quello tipo stazione base, leggermente inclinate, e poi di ricevitore c'ho l'ICR7000 della Kenwood, che è lo stesso un ricevitore, costava un saccaccio di soldi, però confrontato con un altro che c'ho si mette a ridere, e quello era un ricevitore top, poi quando lo confronti con un apparato professionale da laboratorio, l'ICR7000 non riesce a tirarlo fuori il segnale, devi mettere i filtri e riesci appena sotto col fluscio lo senti, quando capita ti faccio sentire quello professionale, quello pulito, tranquillo, senza neanche utilizzare il preamplificatore, c'ha una ricezione con l'apparecchio e due volte è un 440 come dimensione, ma c'ha una ricezione da paura, tutto filtrato possibile, cioè c'ha quello tipo lo Rode Schwarz, stiamo parlando di apparecchi da laboratorio. Ok, sì, è così, è bello, è bello così. Io negli anni passati avevo il ricevitore Harry Kraft, anche quello era un buonissimo ricevitore, poi non mi ricordo che l'ho dato, e prendeva tutte le bande, proprio era una meraviglia, ricevitore Harry Kraft, se ricordo bene, sì, era così, la marca era quella. Va bene, tempi che furono. Avanti da lì. Sì, io stavo aspettando che mi facevate la microfono a me. Faccio io, chiudo che vado a mangiare. Sto parlando. Dai, già ci sentiamo un altro momento. Ciao Roberto, ciao Giulia. Ehi, ha sentito il puppo, cos'è, bambino o bambina, Dani? Ha già chiuso. Ciao Danilo, ci sentiamo alle prossime, forse ha già chiuso, dai. Va bene, sì, è così, fra un po' anch'io, sono già le 8, per cui anch'io sto aspettando la chiamata per la cena, robe. Sarà questione di qualche minuto ancora. Sì, e beh, sono belle cose comunque, per chi è appassionato di radio ascolto soprattutto sono belle cose, oh, robe. E ovviamente vediamo un po', mi è arrivato un messaggio, se questa è la chiamata della cena. No, non è questa. Non è questo, questo sei tu. Va bene, adesso lo guardo. E così, stavo dicendo, vabbè, è una bella attività, anche l'ascolto, una bella attività, veramente. A me piace, ogni tanto mi ci butto dentro e rimango anche delle ore guardando e ascoltando e cercando vari collegamenti. Sì, ti ho mandato la radio col ricevitore professionale da laboratorio. Fate conto, pesa più di 20 kg con l'apparecchio lì, tutto in ferro, alluminio, non ferro, in alluminio. E se lo vedi confronto al 440 ti metti a ridere, è il doppio del 440. Quello è il frequenzimetro, l'hai visto? Il frequenzimetro è un po' più piccolo del 440. E chi fa il doppio del frequenzimetro? Caspita, è bello, molto bello. Anche il frequenzimetro è abbastanza bello, bello, bello veramente. Si prende tutte le radio queste, tutto distintamente. E solo FM prendo, anche AM, anche bande laterali prende. No, c'è anche AM, fa da 0 a 30 e da 88 a 108. È un generatore di... cioè questo lo possono utilizzare in laboratorio quando devono tarare gli strumenti, cioè i ricevitori e cose del genere. Utilizzano questi tipi di apparecchi. Ho capito, praticamente un sintonizzatore in pratica, così è. No, un ricevitore da laboratorio, però di riferimento. C'è un... quando tari gli apparecchi, questo qui c'ha frequenza e campione dentro, quando deve ripetere dei riposti ripetitori molte volte. Li usano queste cose qua. Ho capito, è bello, un bel apparecchio, molto bello, molto molto bello, sì, è interessante. E va bene, dai. Tante volte mi sono chiesto, Robert, ma io mi sono chiesto tante volte, ma io non è che sarò un po' malato di queste cose, buh. Tu hai mai pensato a un fatto del genere? Perché ci sono, delle volte ci sono delle ore già appiccicato guardando certe cose, ma infatti anche mi è venuto il dubbio, ma non è che sono un po' malato di queste cose qua io. Perché a casa lo stesso quando mi vedo, o che sono al computer, o che sono al baracchino, o che sono con il telefonino in mano, sempre parlando roba di elettronica, roba di radio, sempre a queste cose guardo. Infatti mi sono detto, ma non è che sono un po' malato di queste cose qua. E allora siamo in due. Ciao Gianfranco, no, non è per malattia, è una malattia sana, le malattie sono brutte le altre, a parte le malattie vere, ci sono le malattie dell'alcol e della droga, quelle sono brutte, mentre questa è una malattia sana, a me piace tanto, mi diverto, lo uso come valvola di sfogo. Faccio andare a Gianfranco, avanti a lei. Sì, buonasera, ben ascoltarti, ero un ascolto e quindi ho sentito Giulio che diceva, siamo malati, quindi mi sono subito accodato. Avanti Giulio. Ok, ciao Gianfranco. No, me lo sono chiesto più di una volta, perché sembra fatta apposta, infatti anche mia moglie me l'aveva fatto notare, ma quando sei al computer sempre queste cose guardi, oppure sei col telefonino in mano stai sempre guardando queste cose lo stesso, oppure con la radio stai sempre cercando stazioni, quelle... intanto il tempo non mi manca, gli avevo risposto io a mia moglie, il tempo non mi manca per guardare queste cose, comunque già guardo anche altre cose, ma non più di tanto, però queste sono le cose principali che guardo io, Gianfranco, riprendi. Beh, sono anche quelle che guardo io. A me invece cosa mi dicevano? Adesso non lo ricordo. ecco, tu sei fuori di gabbo perché avevano le antenne, cos'è? Le foto così sotto le antenne, tu sei marato. Oi. E così, guarda, anche stasera stavo controllando un po' il cielo, tra virgolette, perché qua sono varie rovie, no? Ho sentito un rumore tipico di aereo in alta quota, a elica, subito sono andato a controllare, eccetera. Era lì, ho indagato da dove veniva, dove stavo andando, no, perché poi ovviamente il segnale sparisce. E praticamente sono passati uno dietro l'altro tre aerei della US Air Force, dei C-130 militari, e sono visti anche, c'era un po' di nuvolaglia qua, ma insomma, adesso anche smesso, forse ho smesso anche di piovere. E quindi Giulio, anche quelle cose, cioè il minimo rumore, la sirena che senti, tutte quelle cose lì, ti portano subito al pensiero della radio. Avanti Roberto. Sì, allora, e anche noi nel nostro piccolo, se parliamo di qualche altra persona che conosciamo, noi, quello che c'ha il museo della radio, che c'ha centinaia di radio, già lo conoscete, non facciamo il nome, quello è ancora, però sono malattie sane, io dico sono sempre malattie sane, come quello, io sono, l'unico problema mio è che io sono appassionato di troppe cose, cerco di farle nel migliore dei modi queste cose, però poi alla fine non hai il tempo di farle tutte. Perché tu dici, ma tu sei appassionato di quello, sei appassionato di quell'altro, è quello, è quella. A me non bastano due giorni, la giornata è di 24 ore, non mi basterebbe una giornata di 48 ore per occuparmi di tutto quello che mi piace, delle mie passioni. E si dico che sono cose carine, non sono niente di coso, di brutto, non credo di usare già nessuno, almeno credo, e va più che bene. Avanti a te di nuovo Giulio. Hola, buonasera a tutti, andate a salutarmi, sono arrivato a casa, dai, ci sentiamo dopo se coincide, ciao. Ok, ciao, vai giù. Ok, ciao Giulio. Sì, beh certo, vabbè, ma se poi poco a poco torno indietro un pochino con la memoria, con tutto il tempo che ho passato con i libri di elettronica, con i libri, le riviste, no, anche i libri comunque, già ne ho qualcuno di libri di elettronica, e a leggere, a fare a giornate intere, proprio il sabato e la domenica quando non lavoravo, ero sempre appiccicato con tanti di quei componenti fra le mani, scatole e scatolette di ogni genere, transistor, condensatori e balle varie, e saldatore sempre fumante. quante ore ho passato, aspetta, facendo certe cose, poi ormai no, ormai non ho più nemmeno la pazienza di queste cose, però ti posso garantire che sono passati anni che io ho fatto sempre applicazioni eccetera. E vabbè, comunque la passione è passione, non c'è niente da fare. Quando uno è appassionato di un certo hobby, è giusto anche che venga praticato. Avanti Gianfra. Sì, ciao Antonio, buona cena, alle prossime. Sì, anche io infatti qua, proprio qua davanti c'ho il libro, perché poi siamo anche suddivisi per passioni, comunque, cioè la passione è la stessa in linea generale, però c'è chi si specializza nell'IEX, c'è chi si specializza, che ne so, sulle frequenze alte o satellitari, c'è invece chi si concentra sull'ascolto particolare, poi su tutti i sistemi un po' complessi. Io qua c'ho davanti un libro che è del tedesco, il famosissimo Klingfuss, qualcosa del genere, un cognome tremendo, Klingfuss Utility, la guida Utility del 1992, quindi 1992 sono quasi, sono parecchi anni, se non sbaglio. Adesso ovviamente ne ho qualcosa di domani, c'erano tutte le stazioni del mondo, o meglio ci sono di lì elencate tutte le stazioni del mondo, di tutti i tipi e generi. E quello lì sì era un maniaco, ma maniaco sul serio del radioascolto. Avrò impiegato tutta la vita per fare quel volume. A te Roberta. Vabbè, io riprendo per salutarvi, grazie, all'ora di mangiare. Dai, saluto di nuovo a Giulio, Gianfranco, Antonio, non so se rientro dopo, sarà difficile, c'è anche la partita stasera, se ne vogliamo la guardo. Vi saluto, vi auguro un buon proseguo di serata. Mari, se capita ci risentiamo domani. Ciao ciao a tutti. Ok, ciao Roberto, grazie della chiacchierata, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Buona cena, e anch'io prendo molto, sto aspettando infatti che mi chiamino per scendere giù in tavernetta a mangiare. Sì, ma è così, Giofra, vai intanto per salutare Roberto. Sì, ciao Roberto, buona serata e buona cena. Sì Giulio, solo che occorre il tempo perché ci sono tante cose da fare, poi è anche un'attività molto impegnativa, ecco, soprattutto per quello che riguarda le antenne, anche perché anche i costi ovviamente, perché costa moltissimo, secondo me il radioascolto costa molto di più anche del semplice radioamatore che si mette in un apparecchio, una bella antenna ed è fatta. Il radioascolto pretende molte energie, molta pazienza e a volte anche esasperante. Riprendi Giulio. Sì, già fa, in effetti è così, è molto costoso e soprattutto richiede molta concentrazione anche per fare certe cose, certo. Poi mi sono anche dato tantissimo tempo per la televisione, quando loro incominciavano i primi canali privati della televisione, eccetera. Tu pensa che allora io abitavo in un'altra casa e avevo l'antenna della TV, ce l'avevo nella ringhiera del poggiolo a casa. Premesso che dove abitavo io era una palazzina con quattro famiglie, due per ogni scala, perché c'era una scala esterna, due scale, da una parte due inquiline, dall'altra parte altre due inquiline, e c'era l'antenna centralizzata. Però siccome allora in quel periodo io ero in affitto, non era possibile salire sul tetto per installare un'antenna, allora avevo messo l'antenna del baracchino sulla ringhiera e allo stesso tempo avevo messo anche l'antenna della televisione. Con questa antenna della televisione ho fatto tante di quelle ricerche, io vedevo a Sassari, vedevo Radio Tele Monte Carlo, quando Tele Monte Carlo se lo sognava non Sassari, ma addirittura se lo sognava anche Fusaro, prima che inventasse il solito amplificatore eccetera eccetera che aveva poi costruito. Perché cosa facevo? Avevo girato l'antenna nella staffa, avevo segnato l'attacca alla staffa e l'attacca nel tubo. Giravo il tubo a mano perché era stretto, però con le mani potevo girare tutto il tubo. E giravo l'antenna e io prendevo Tele Monte Carlo tranquillamente, quando Sassari ancora non esisteva Tele Monte Carlo. Per non parlare poi di altri canali, tipo anche Rai TV 3 dalla Toscana direttamente, quando Sassari ancora non esisteva Rai 3, che c'era solo primo e secondo canale. Erano tutte cose che io ho fatto, ho passato delle ore, delle giornate intere, sempre parlando di domenica e di sabato, no? E mi dedicavo a queste cose, tanto di quella pazienza, però ottenevo tanti risultati. Ai tempi di Telecioco, allora esisteva Telecioco, eccetera eccetera, e io prendevo canali privati quando a Sassari ancora nemmeno per sogno. Perché? Perché li prendevo direttamente dall'Isola d'Elba, li prendevo tramite quella canalizzazione, evidentemente dove abitavo c'era una buona canalizzazione, io riuscivo a ottenere queste ricezioni qua. Vai. Sì, beh, quando ero ragazzo l'ho fatto anch'io, mi ricordo che avevo piazzato un palo molto alto, non era per me, non c'avevo ancora i soldi per fare una cosa del genere, va bene, qualche cappuccino comunque, in alto però, avevo piazzato un'antenna per vedere la Francia, la Corsica, poi si vedevano altri canali col sistema Seccam, quindi molte stazioni francesi, e poi prendeva tanti altri canali, avevo messo un bell'amplificatore. È una mega direttiva che era qualcosa da paura. Ma vabbè, altri tempi oramai tutto cambia. Un'altra passione collegata però a livello amministrativo, quella, è che io guardo spesso tutti i bandi, no? I bandi di acquisizione dei vari enti. Ieri me ne è capitato sotto mano quello del MISE, praticamente un po' datato, però era interessante, perché si chiedeva l'acquisizione per i propri mezzi di un radiogoniometro. Questo radiogoniometro era dalla Rode Schwarz, una cosa portatile, quindi alimentato con batteria litio. Come escursione di banda ci aveva dai 20 MHz fino ai 6 GHz, scansione rapidissima, GPS, rilevamento della stazione trasmittente nel giro di, diciamo, qualche minuto. Quindi un oggetto micidiale. Tu pensa che solo l'antenna direttiva costava la bellezza di 3.500 euro, un'antenna grande quanto, ti posso dire, sarà stata 40 centimetri a forma di V, proprio dedicata a quell'apparato, perché nel costo dell'apparato, che non ti dico il prezzo, sono tutti spaventi, non era compresa, solo l'antenna 3.500 euro. Beh, no, io spese così non le ho mai fatto, assolutamente no. Però è una cosa molto interessante, è una cosa che mi appassiona, la verità. Lo so, capisco perfettamente le persone, appunto, che sono addentrate in maniera molto profonda in questo tipo di hobby. Sicuramente sì, qualcuno può dire quello è maniaco di queste cose, no, non è vero, è un'attività salutare, come appunto stavamo dicendo poc'anzi, molto bella da seguire, molto ampia, difficile anche, tra l'altro, perché ci vuole anche un certo cervello per seguire tutto con attenzione, con tutti i particolari, e seguire tutto il sistema di trasmissione, eccetera. È molto molto bello, molto importante, però se uno non ha la passione per la radio, certe cose non le fa proprio, non si può dire che uno vi possa fare così, indipendentemente dal fatto che a uno non piace la radio, no. Se fa certe cose vuol dire che è una passione quasi morbosa proprio per la radio. È così, vabbè, d'altronde siamo, sì, arrivo subito, mi stanno chiamando per la cena, Gianfra, dai, ti devo salutare, dai, ascolto finalino e poi chiudo, avanti, provo, Gianfra. Sì, infatti, lo sento anch'io, va bene Giulio, in libertà allora, vai subito a cenare. Comunque, quegli apparati ne avevamo ordinato all'epoca 6, di quella marca che ti ho detto, e solo gli apparati, questi 6 apparati, venivano intorno a 280.000 euro, solo 6 portatili piccolini. Va bene Giulio, alle prossime, buona serata e buona cena. Ok, grazie Gianfra, alle prossime, ciao. Ciao a tutti, altre non ti dico buona cena perché sono sicuro che l'hai già fatta. Alle prossime, buonanotte comunque, ciao. Ciao, ciao Giulio. E cosa per la sirena, beh? Ora, la fiunaria, è tutto a posto già. Mi sa che stiamo a finire, che ha già finito, mamma mia, che è? La rotta la palla. 10 savoiardi, Monica. Mamma mia, doveva mandarmi porta poco. Con il latte? Eh sì, deve pure il buco qua che sopra, ma sono soffici soffici. Sono di batteria, Sì. Ti metti 2 o 3, 3, fai 3, da 4, da, non di più. Una cosa, se non so se non mi piacciono. Se non vanno bene. No. E cosa li batte? Mi muovo e andiamo. Allora, con latte vogliamo mangiarti 10 amaretti e 6 savoiardi, come per tirarti sulla carica. Ma così è. Cazzo, così ti vanno diabete a 1000. Vero, ha giubilato un gatto, una gorgonzola, buona redda era. Ho dovuto finire perché era tascendi, mamma mia che roba buona. Chi da guru cucciare mi mai comparata, dai. Cosa tu? La gorgonzola col cucchiaio l'hai mai presa? La gorgonzola? Al cucchiaio. Cazzo, è un buona maletta, cazzuola, ecco. No, veramente, l'hai mai vista quella che è dentro il coso? Quella col cucchiaio. Non quella che mettono così, chi sa gurugucciare proprio. Sì, si dà la forma, che la parola dà la forma. Sì, sì, è tanto la voglia, buona, buona, buona. Cata se è buona, mamma mia che sapore buono. È cara quella, è più cara. Mi ha affunto, ma se mangia di gorgonzola, raga. E qua ti faccio del polizzirolo, eh. Se abbia il culo. Ando pure, dammi se busta, eh. Va bene, ma intanto, meglio morì teci. No, tu, se morì sei... Cazzo, non andava così. Sai che per la dintra, no, vieno, prende le balle. È vero. E va, per la medicina? Cappa, devo fare un osso. Devo fare una goccetta. Riprendo tra un po'. Sì, e poi da subito. Buonasera a todos, buonasera a todos, buonasera a todos. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, cambio, cambio, cambio. Facciamo, attenzione Eugenio, ti ho sentito, ero giù che stavo facendo la doccia, avanti. Attento Eugenio, mi senti? Hola, chicos, tiene bloccato. Sto qua fuori. Attento Eugenio, ma buccio d'orra, mi intendi? Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, cappa. Hola, hola. Attenzione 10, c'è qualcuno, cappa.